La politica alla prova. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta e dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. E buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito. Ore cruciali per il governo. Sembrano rientrati gli strappi dovuti alla manifestazione del PDL a Brescia di sabato. Il premier Enrico Letta, lo sappiamo, ha convocato tutti in provincia di Siena per fare spogliatoio. Ma tu, Vincenzo, che giochi a calcetto ogni lunedì, ma questi spogliatoi sono sempre così bellicosi come la riunione di governo? Ma sì, se sono così bellicosi, ma ricordiamoci che storicamente gli spogliatoi di questo tipo hanno determinato, Elisabetta, grandi vittorie per le grandi formazioni di calcio. Ma comunque sembra che l'accordo qui dall'abbazia senese sia uscito. Ricordiamo intanto il numero per i nostri sms: 349 238 6666. Dicevamo un piccolo accordo, un mini accordo lo potremmo definire. I ministri non andranno a comizi e talk show prima delle amministrative e parleranno solo dell'azione di governo. Ma sentiamo su questo il premier Enrico Letta. Franchezza e lealtà reciproca. Quindi, rispetto ai problemi che avete verificato nelle ultime 48 ore, la decisione che abbiamo assunto è quella che avete poi comunicato all'esterno, che è stata comunicata all'esterno, cioè la decisione di attenersi a una regola per la quale i ministri si occupano del governo, si occupano delle cose di governo e cercano di fare del loro meglio per riuscire a dare risposte ai problemi del Paese attraverso le loro competenze e i loro settori specifici, e con un impegno a stare fuori dalle vicende più prettamente politiche partitiche, a partire dalla campagna elettorale per le amministrative che è in corso e che è una campagna elettorale ovviamente particolarmente complessa. E questo era Letta che avverte: o così o altrimenti l'esperienza di governo si scioglie. Anche ieri abbiamo sentito poi i due portavoce di Letta e di Alfano che si pizzicavano così, anche perché c'è stato questo viaggio in pulmino da Roma a Sarteano all'abbazia. Marco giustamente ci scrive: il governo non ha iniziato a lavorare, già vanno in vacanza. E un viaggio in pulmino, ricordiamo, tra Letta e Alfano, con uno scontro molto molto acceso. Sentiamo allora che cosa anche ha detto Letta. Ma molto banalmente, io penso che anche questo sia un aspetto positivo per il governo e per quello che è successo, perché dentro lo spogliatoio abbiamo discusso, e io preferisco che si discuta dentro lo spogliatoio piuttosto che partano interviste di un ministro contro l'altro ministro. Quando cominceranno le interviste dei ministri gli uni contro gli altri, allora comincerò a preoccuparmi seriamente. Quando si discute dentro lo spogliatoio ci si dice le cose francamente come stanno, franchezza e lealtà. Dopodiché, ovviamente, io l'ho detto fin dall'inizio, ognuno risponde alla sua coscienza e al paese delle cose che fa e che deve fare, e ognuno di noi farà le sue scelte in piena libertà, io in primis. Franchezza e lealtà sono dunque i due aspetti, i due requisiti che Letta chiede ai membri del suo governo. D'altronde questo è un governo, è stato detto più volte, che unisce anime molto diverse. Si esce, Elisabetta, da 20 anni di un duro confronto tra centrodestra e centrosinistra. È lo stesso pensiero, ad ammetterlo è lo stesso Angelino Alfano, vice premier e ministro dell'interno, che parla proprio di alleanza tra due ex nemici. Sentiamo allora Alfano. Una due giorni che evidentemente non ha superato problemi che ci sono da 20 anni e che, come diceva il Presidente poco fa, ci sono, esistono, ma una due giorni che ha consentito di prendere atto di un punto di forza, e cioè che il governo non si fa sopraffare dai problemi. Noi siamo qui per l'Italia. Siamo qui per il bene dell'Italia, ci siamo occupati dei provvedimenti che un governo può approvare o può proporre al Parlamento per il bene dell'Italia. Alfano ammette dunque l'esistenza di problemi, ma il governo è chiamato proprio a risolverli. Poi Alfano, senza nominarla, fa riferimento alla manifestazione di sabato a Brescia, alle polemiche che vi sono state anche per la sua presenza proprio in Piazza Duomo, e ha ricordato che comunque Silvio Berlusconi non ha esagerato in quella manifestazione, che comunque è il cavaliere, il leader del centrodestra. Ascoltiamo ancora Alfano. Dando atto della correttezza con cui i giornali oggi hanno trattato la materia, ribadisco che questa non è stata materia divisiva per il governo, ma che è stata una decisione condivisa e concordata. Io sono vicepresidente del Consiglio su designazione del presidente Letta e del Consiglio dei Ministri, perché e in quanto io sono il segretario politico del Popolo della Libertà. Quindi sono stato indicato in quanto segretario politico del Popolo della Libertà. Poi sapete anche che il mio partito ha un leader, e quindi che il segretario sia al governo non incide sulla leadership e sul processo di funzionamento e sulla modalità di presenza e di partecipazione alla dialettica politica del partito di cui sono segretario. Ricordando il numero per gli sms 349-238-6666, oggi questo governo annoia perché non ci arrivano molti sms, Vincenzo. Ma intanto, tra i provvedimenti, la commissione bicamerale per le riforme, formata dalle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato e da un apporto di esperti, e soprattutto sul fronte economico IMU e cassa integrazione in deroga al Consiglio dei Ministri di venerdì. Vincenzo, la domanda è d'obbligo: dove prenderanno i soldi? Sì, per l'IMU lo slittamento in avanti verrà coperto con anticipi della Cassa Depositi e Prestiti. Per la Cassa Integrazione in deroga invece i soldi dovrebbero arrivare da risorse interne al Ministero del Welfare e da fondi rotativi. Si parla poi di tassare, poi invece è rientrato le sigarette elettroniche, infatti si dice di no, salta questo provvedimento per coprire il decreto sui debiti delle PA, ma già aveva detto di no il Movimento 5 Stelle. Allora sentiamo Laura Castelli. Noi non siamo d'accordo con quell'emendamento, crediamo che i soldi si possano prendere da qualche altra parte. In ogni caso noi abbiamo proposto un fondo, tipo un fondo rotativo, che possa essere davvero di supporto alle piccole e medie imprese. Non è questo il modo di trattare una materia così importante, su una materia che ancora ha un sacco di lati oscuri, perché è notizia di questi giorni, ci stanno facendo anche degli studi per capire se effettivamente la sigaretta elettronica sia una sigaretta nociva, tossica, o piuttosto che invece salutare. Per cui noi abbiamo detto di no e adesso finiremo in commissione lo studio di questi emendamenti. E invece sull'IMU il governo ha detto già stop alla rata di giugno, secondo lei come va rimodulata? Beh, noi diciamo no all'IMU sulla prima casa, anche qui le coperture noi pensiamo di averle, per cui la nostra proposta è di sicuramente mandarla, cioè abolirla di fatto sulla prima casa, dopodiché va ripensata aumentando quella sulle case sfitte, e ci sono parecchie coperture operabili. E questa era Laura Castelli del Movimento 5 Stelle, anche per oggi è tutto, un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.